sentiere ti faccio guardare in un altro mondo mentre questo beat sale piano piano. Rimango come Albano che ha perso la figlia, rimango senza un cuore, senza come una biglia sparata a 20.000 all'ora contro un'altra gittata nucleare. Ogni mio verso un arsenale, ogni mia base magistralmente supera la seconda. Su questa base sono come una filastrocca che reciterai la seconda volta di ogni volta che ti sentirai il secondo. Ripeterai con me nel profondo, voglio cantare, voglio cantare, anche se sono il secondo, anche se vengo da Marte, anche se sono in disparte. Questo violino sembra una frase recitata d'arte. Rimango qui in parte offeso della mia lirica, confuso nello stesso tempo abuso di questo microfono. Lo faccio troppo saltare, mi faccio saltare in aria, sono stanco di ogni vostra risposta banale. Rimango senza vedere dentro un monitor la mia vita, la televisione spenta è già partita. Questo microfono ha vinto la battaglia di un media contro l'altro. Non è che canti mainstream, io sono troppo forte, col microfono e anche sul palco. Quando vuoi un paio di canzoni te le faccio. Rimani qui con me, nella mia casa, frate, saresti fuori dallo spazio. Sai perché? Perché quelli che blefano non sono i benvenuti. È inutile che ti scrivi le frasi nel freestyle e ripeti. È inutile che combatti contro Leonardo da Vinci, contro Michelangelo, o senti questi istinti artistici che non mandano in alto come dei fuochi d'artificio futuristici che vedi persino dallo spazio. Questa casa su Google Map la trovi se scrivi NASA. Ricordati questa rima sfasa, solo quando lo dico io ti porterò nel mio brio, nelle mie memorie d'infanzia, dove era tutto un paradiso. Come oggi che ritorno in questo posto, la mia nuova casa natale, che mi culla la notte, mi sa portare su ancestrali note. Rimango qui tra mille volte prese, il venerdì, il sabato e la domenica, ci siamo prese bene perché sono i nostri giorni festivi. Vogliamo essere meno cretini ma più liberi, essere come questo violino immenso che fa rampeggiando quello che vorrei esprimere con la bocca. Vorrei essere già un'altra volta su una base, su una cabriolet in fase di decollo verso la Route 66. Vorrei essere come Jim in questa strofa qui, come Jim in questa strofa qui. Beach on the beach.